Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 12 di Matteo? Capitolo 12, leggerò dei versetti. Precisamente leggerò i versetti che vanno dal 22 al 37, quindi capitolo 12 di Matteo. Allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto lo parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano: non è costui il figliol di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapigli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prederà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il figliol dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo, né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo da bene dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io vi dico che ad ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Dunque, Gesù fu calunniato, lui il giusto, il santo, fu calunniato, fu accusato falsamente dai farisei di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Belzebù è uno dei nomi, diciamo, del diavolo, di Satana, l'avversario. Ora, coloro che formularono questa calunnia contro il nostro Signore Gesù Cristo erano i farisei. I farisei erano una setta del giudaismo molto attaccata alla tradizione, con la quale peraltro annullavano la parola di Dio, e sedevano sulla cattedra di Mosè, cioè ammaestravano il popolo, cioè i giudei. Erano molto considerati in mezzo ai giudei i farisei, eh? Non stiamo parlando di giudei qualsiasi. Peraltro i farisei facevano parte anche del Sinedrio. Dunque, essi accusarono Gesù di cacciare i demoni per l'aiuto di Satana, l'avversario, il maligno. E Gesù diede una meravigliosa risposta confutatoria, con la quale turò la bocca a quei scellerati che amavano la menzogna, perché solamente persone che amano la menzogna possono dire una tale cosa, potevano dire una tale cosa contro Gesù. Il Signore Gesù, nella sua risposta, dichiarò di cacciare, e lo fece chiaramente, dichiarò di cacciare i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio. E ammonì tutti quanti, li mise in guardia dal parlare o bestemmiare contro lo Spirito Santo. Perché? Perché i farisei con quella calunnia avevano bestemmiato contro lo Spirito Santo, avevano parlato contro lo Spirito Santo, perché attribuirono ciò che Gesù faceva per l'aiuto dello Spirito di Dio, che è lo Spirito Santo, attribuirono ciò al diavolo. Quindi essi bestemmiarono contro lo Spirito Santo. Peraltro ancora oggi ci sono persone che, come i farisei, bestemmiano contro lo Spirito Santo, perché attribuiscono il cacciare i demoni nel nome di Gesù, lo attribuiscono al diavolo. Questi bestemmiatori si trovano in particolare tra i cessazionisti, ossia tra quegli evangelici che ritengono che sostanzialmente Dio abbia cessato di fare miracoli con la morte degli apostoli, o meglio, che Dio abbia cessato di distribuire il dono di potenza d'opera, miracoli, i doni di guarigione. Per cui oggi chi afferma di avere questi doni, perché naturalmente li ha ricevuti, intendiamoci, e si vede la manifestazione dello Spirito Santo associata a questi doni, ebbene, loro praticamente accusano costoro di operare per l'aiuto del diavolo. Questi sono bestemmiatori, bisogna chiamarli con il loro nome, la scrittura li chiama in questa maniera, e noi sappiamo che i bestemmiatori non erediteranno il regno di Dio, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Naturalmente ci si fa tanti nemici in mezzo agli evangelici dicendo queste cose, ma questa è la verità. Sin dall'inizio del movimento pentecostale, di questi bestemmiatori ce ne sono stati veramente tanti. Non è, la loro esistenza non è che, voglio dire, non è che sono sorti l'altro giorno. Chi ha studiato la storia del movimento pentecostale, ma chi l'ha studiata bene, non superficialmente, sa benissimo che di bestemmiatori contro lo Spirito Santo ne sorsero veramente tantissimi, perché cominciarono ad attribuire, per esempio, il parlare in altra lingua per lo Spirito, lo cominciarono ad attribuire alla manifestazione dei demoni. Ora, naturalmente noi non neghiamo che anche all'inizio del movimento pentecostale ci siano state manifestazioni diaboliche che non avevano niente a che fare con la manifestazione dello Spirito Santo in mezzo, a chiese pentecostali. Non neghiamo che ci siano state lingue demoniache in seno al movimento pentecostale sin dall'inizio, ma attenzione, da qui a dire però che tutte le lingue erano dal diavolo, che tutti quelli che parlavano in altre lingue erano posseduti dai demoni, beh, ce ne passa tanto, perché ci furono veramente tanti, tanti, tanti credenti che furono battezzati con lo Spirito Santo, come lo furono i circa 120 il giorno della Pentecoste, e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E ci furono veramente guarigioni compiute nel nome di Gesù Cristo, ci furono veramente liberazioni compiute nel nome di Gesù Cristo, ci furono miracoli compiuti nel nome di Gesù Cristo, quindi per la potenza dello Spirito Santo. Quindi bisogna sempre sapere distinguere tra il bene e il male, tra ciò che è vero e ciò che è falso. D'altronde è come per quanto riguarda, diciamo, il Vangelo. C'è il Vangelo e poi ci sono, diciamo, tanti falsi Vangeli, come così anche con la dottrina. C'è la dottrina di Dio, poi ci sono le false dottrine. Quindi bisogna sapere discernere, e per questo naturalmente bisogna avere il discernimento che viene da Dio, ma lo Spirito del Signore ci guida in tutta la verità, quindi noi sappiamo di avere una guida infallibile, che è lo Spirito della verità, che è lo Spirito Santo. Quindi bisogna stare molto attenti, ma siccome che questi cessazionisti ritengono che il Signore abbia cessato di dare, diciamo, i doni dello Spirito Santo con la morte degli apostoli, che poi praticamente loro diciamo, stabiliscono come data un po' la fine del primo secolo dopo Cristo, ecco che per loro, naturalmente, tutti coloro che oggi parlano in altra lingua, cacciano i demoni nel nome di Gesù, impongono le mani nel nome di Gesù sugli infermi affinché siano guariti, gli ammalati vengono guariti, ecco che sono tutti indemoniati, sono tutti posseduti dai demoni. Quindi state attenti, perché in mezzo alle chiese evangeliche ci sono tanti che bestemmiano contro lo Spirito Santo. Allora, vi stavo dicendo che Gesù diede una meravigliosa risposta confutatoria, dimostrando appunto quanto fossero ignoranti e scellerati i farisei, diciamo, muovendo contro di lui quella falsa accusa. Ora, in queste parole che vi ho letto, tratte da Matteo, l'ultima parte di queste parole la ritengo molto, molto significativa, molto importante. Perché? Perché Gesù ha enfatizzato il frutto della bocca dell'uomo, ha messo molta enfasi su quello che esce dalla bocca dell'uomo, quindi sulle parole. Attenzione, qui Gesù sta parlando di parole e ha proprio accusato questi farisei in questa maniera: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Allora, notate che Gesù li ha chiamati malvagi. Malvagi, ma in base a che cosa li ha chiamati malvagi? In base a che cosa ha potuto definirli malvagi? Perché Gesù in questa maniera ha espresso un giudizio su quei farisei che avevano detto quelle parole contro di lui. In base a che cosa Gesù li chiamò malvagi? In base alle loro stesse parole. Perché? Perché Gesù ha detto che l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Allora, questo malvagio tesoro dov'è che lo tiene? Dov'è che si trova? Che cos'è? È il cuore dell'uomo malvagio. Infatti vedete che Gesù ha detto: dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Cioè, sostanzialmente, quello che uno dice, lo dice perché è nel suo cuore. Quindi quei farisei, quelle parole malvagie, da dove le tirarono fuori? Le tirarono fuori dal loro cuore malvagio. Avevano un cuore malvagio. Quindi Gesù li ha giudicati non dall'apparenza, ma li ha giudicati con giusto giudizio, perché quelle parole che quei farisei dissero erano malvagie. O qualcuno può dire che non erano malvagie? Allora, dato che quelle parole erano malvagie, erano cose malvagie, Gesù li ha definiti come malvagi. Quindi, Gesù che cosa ha detto? O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Ora, Gesù in questo frangente per frutto ha inteso proprio il frutto della bocca, perché notate come stia parlando di ciò che esce dal cuore e naturalmente che viene detto con la bocca. Quindi, dalle cose, diciamo, che un uomo dice, afferma, si capisce se è un albero buono o un albero cattivo. In questa circostanza Gesù li giudicò a quei farisei alberi cattivi, alberi malvagi. Ma perché? Perché il frutto della loro bocca era malvagio. Quelle cose malvagie che avevano detto testimoniavano che costoro avevano un malvagio tesoro. Come dico spesso, dal frigo si tira fuori quello che uno ci ha messo nel frigo, giusto? Ebbene, uno dalla bocca esce quello che uno ha dentro il proprio cuore. Ecco, notate infatti come Gesù ha detto: ad ogni parola oziosa che avranno detto gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. E poi ha detto: poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Ah, ma allora ci saranno quelli che saranno condannati dalle loro parole? E certo, i malvagi saranno condannati dalle loro parole malvagie. Quei farisei che accusarono Gesù falsamente di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù, in quel giorno saranno condannati dalle loro stesse parole. Quindi, vedete che Gesù in questa maniera ha sottolineato l'importanza delle parole, l'importanza che hanno le parole dell'uomo. Allora, fratelli, l'uomo da bene, l'uomo buono, dà suo buon tesoro tra le cose buone, ma il malvagio dà suo malvagio tesoro tra le cose malvagie, perché l'albero si conosce da che cosa? Dal frutto. Dal frutto, non dalle foglie, ma dal frutto. E noi, in base a come parlano gli uomini, riusciamo a discernere se ci troviamo davanti a un uomo da bene o a un uomo malvagio. Basta osservare attentamente, ascoltare attentamente quello che il nostro interlocutore o comunque chi stiamo ascoltando dice. Perché se è buono dirà cose buone, se è malvagio dirà cose malvagie. Guardate che qui non ci si può sbagliare. Ve lo ripeto, è impossibile sbagliarsi. D'altronde, se Gesù ha detto che dal frutto si conosce l'albero, per forza di cose, noi non è che possiamo dare a Gesù del bugiardo, lungi da noi. Gesù ha detto la verità, sì, ha detto la verità. Quindi l'albero noi lo riconosciamo dal suo frutto, dal frutto della sua bocca. Razza di vipere! Ma capite come li ha chiamati? Le vipere. Le vipere hanno un veleno. Dove ce l'hanno il veleno? Ce l'hanno dentro. E poi lo tirano fuori, no? Sono micidiali le vipere. E Gesù, vedete, che parole sagge. Come potete dire cose buone essendo malvagi? Cioè, gli ha detto, voi siete malvagi, ma come potete dire cose buone? Gesù riconosceva appunto, perché Gesù conosceva quello che c'era nell'uomo, riconosceva praticamente gli alberi dal loro frutto. E anche noi li riconosciamo, gli alberi dal loro frutto. Quindi riusciamo a capire se ci troviamo davanti un uomo da bene o un uomo malvagio. Ancora oggi, infatti, ci sono uomini da bene e uomini malvagi. C'è chi ha un buon tesoro, e da esso trae cose buone, c'è chi ha un malvagio tesoro e da esso trae cose malvagie. Oggi, ancora oggi. Vi voglio fare alcuni esempi, così, voglio dire, avete, diciamo, la cosa ancora più chiara. Oggi molti definiscono Dio un Dio malvagio, arrogante, ignorante, ingiusto, insensato, folle e bugiardo. Sapete chi sono? Sono gli gnostici. Guardate che gli gnostici esistono ancora, non è che sono una razza di eretici che si è estinta. No, ne esistono tanti nel mondo. Esistono chiese gnostiche, associazioni gnostiche. E tutti naturalmente si rifanno al movimento gnostico, che era un movimento eretico sorto, diciamo, nei primi secoli dopo Cristo. Ora, i massoni sono essenzialmente degli gnostici, che odiano l'Iddio dell'Antico Testamento, loro lo chiamano in questa maniera, praticamente odiano il solo vero Iddio, e lo definiscono, lo offendono, lo insultano in tante maniere. Questi sono, diciamo, gli insulti che lanciano contro l'Iddio vivente e vero. Ora, queste cose qui, che cosa sono? Cose buone o cose malvagie? Che costoro dicono? Che cosa sono se non cose malvagie? E da dove escono queste cose? Da dove le tirano fuori costoro queste cose malvagie contro il nostro Dio? Dal loro cuore malvagio, dal loro malvagio tesoro. Sì, alcuni magari si meraviglieranno che esistono oggi veramente uomini e donne che insultano Dio proprio in questa maniera. Sì, ma proprio lo fanno nei loro libri, nei loro discorsi. Lo insultano. Considerate, insultano il santo, il giusto. Lo insultano in questa maniera. E allora, quando vi trovate davanti uno, no? Che insulta Dio, voi come lo definite? Attenzione, senza conoscere la sua vita, senza conoscere le sue opere, senza assolutamente, o magari anche conoscendo, magari le loro opere, magari fanno opere filantropiche. Allora vi faccio questa domanda. Se voi incontrate un filantropo, quindi uno che un uomo ricco, che devolve una buona parte dei suoi proventi, diciamo, per aiutare i bisognosi, vedove, orfani, poveri, disabili, insomma, proprio persone che si trovano nel bisogno, no? Voi sentite questo filantropo dire che Dio è... Quindi uno che fa opere buone, attenzione, quelle sono opere quando si aiutano i bisognosi, no? dobbiamo sempre riconoscere che si tratta di opere buone. Allora, ma se voi lo sentite, conoscendo quello che lui fa, lo sentite insultare Dio dicendo che Dio è un Dio malvagio, arrogante, ignorante, ingiusto, insensato, folle, bugiardo, perché lui è uno gnostico, voi come lo definite questa persona? Eh? Davanti alle sue opere che magari tutti conoscono, magari aiuta anche magari a portare fuori dalla strada le prostitute, magari devolve anche soldi, diciamo, in quel campo, no? Per aiutare qualcuno, qualche associazione a portare fuori dalle strade, diciamo, le prostitute. Ora, come lo definite voi una persona del genere? Un albero cattivo. Ma come voi direte? Ma fa tanto del bene. Sì, ma la Sacra Scrittura mi comanda di chiamarlo albero cattivo. Perché? Perché quell'uomo dice cose malvagie, trae cose malvagie dal suo malvagio tesoro. Quindi non guardare le sue opere filantropiche, guarda quello che lui dice. Non è un uomo da bene. Che ne dica il mondo? Sì, il mondo dirà un bravo uomo, fossero tutti come lui, ma la Scrittura lo definisce uomo malvagio. Un albero cattivo. Lo so, mi faccio molti nemici dicendo queste cose, però io devo dire la verità. A me che interessa del plauso del mondo o di queste chiese, diciamo, massoniche o filomassoniche, a me non interessa niente. La verità è questa. Sì. Sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Diceva, fece questa domanda Paolo ai Galati, ma io lo so di essere diventato nemico di tanti dicendo la verità, ma appunto dicendo la verità, quindi mi rallegro nel Signore, per i tanti nemici che ho, perché dico la verità che è in Cristo Gesù, non una verità, la verità, ma quanto sei orgoglioso, ma quanto sei arrogante, alla fin fine è ovvio, chi dice la verità per forza di cose è accusato da quelli che non conoscono la verità di essere arrogante, orgoglioso. D'altronde, da chi dice che la verità assoluta non esiste, è normale che io sia accusato di essere arrogante, presuntuoso, superbo. Però io conosco la verità perché Dio mi ha fatto conoscere la verità e vi proclamo la verità. E allora vi ho fatto un esempio per farvi capire appunto che voi dovete osservare attentamente, ascoltare attentamente, valutare attentamente le cose che escono dalla bocca dell'uomo, da questi che appunto parlano su Dio, ma lo offendono, lo insultano, quelli sono alberi cattivi. Tra gli alberi cattivi ci sono anche quelli che lottano contro Dio. Sì, perché sapete, c'è un esercito di lottatori contro Dio sulla faccia della terra, un po' come gli gnostici, anche gli gnostici lottavano contro Dio, perché lo odiavano Dio, per quello lottavano contro Dio. Gli gnostici non è che lottavano contro il diavolo, no, lottavano contro Dio, e ancora oggi gli gnostici o i filognostici lottano contro Dio. Ma sì, ma perché? Perché detestano le vie di Dio, i giudizi di Dio, detestano, sì, proprio detestano Dio, allora lottano contro Dio perché vogliono che Dio si pieghi alla loro volontà, tu devi fare come vogliamo noi, capito? E allora lottano contro Dio con tutte le loro forze fino a che il Signore glielo permette, poi li fa scendere nelle fiamme dell'inferno. Sì, perché quelli che lottano contro Dio sono tra coloro, appunto, che dicono, traggono fuori dal loro malvagio tesoro, cose malvagie. Ma già il fatto di dire io lotto contro Dio, ma ditemi una cosa, ma già questa è una cosa malvagia di per sé. Come fai a definire uomo buono uno che lotta contro Dio? Ma quello è malvagio. E infatti poi si vede. Quando lo conosci, il lottatore contro Dio, quando lo conosci a fondo, di persona, quando ci passi del tempo, allora tu capisci, che è un albero cattivo, no? Perché alcuni dicono, beh, ma non ti pare di esagerare, di essere frettoloso nel giudizio? No, perché io i lottatori contro Dio li ho conosciuti personalmente e posso dirle che sono malvagi. Cioè, posso dire che sono malvagi non solamente in base alle loro parole malvagie, cose malvagie che hanno tirato fuori dal loro tesoro malvagio, ma anche in base alle loro opere malvagie, perché conosco le loro opere. E questo è il fatto. Ma d'altronde, ricordatevi che le parole, le cose malvagie che escono dalla bocca, poi praticamente vanno associate anche agli atti malvagi, alle opere malvagie. Eh sì, camminano assieme, sono inseparabili. D'altronde, una dottrina falsa, malvagia, che cosa può produrre se non una condotta malvagia? Quindi riflettete, riflettete alle parole di Gesù. Ebbene, prendiamo per esempio adesso quelli che parlano contro Gesù, che dicono delle cose veramente contro Gesù, che uno dice, ma possibile mai? C'è gente che dice queste cose contro Gesù ancora oggi. Sì, sì. Allora, sono in molti nel mondo che dicono che Gesù non è morto per i nostri peccati, non è risuscitato, non ritornerà, o che dicono che non è stato ucciso da nessuno, o che è una via, una verità, una vita. Ora, domanda, ma queste cose che costoro dicono sono cose buone o cose malvagie? No, cominciamo appunto, cominciamo con questa domanda. Come le giudicate voi queste cose che vengono dette contro Gesù? Cose buone o cose malvagie? Beh, i santi giudicano queste cose come cose malvagie. Allora, coloro che dicono queste cose malvagie, che cosa sono? Sono buoni o sono uomini da bene o uomini malvagi? Alberi buoni o alberi cattivi? In base alle parole di Gesù, In base alle parole di Gesù. È evidente che costoro sono degli uomini malvagi che traggono fuori queste cose dal loro, cose malvagie, dal loro tesoro malvagio. Sono alberi cattivi che portano frutti cattivi. Quindi noi li riconosciamo dal loro frutto, dal frutto della loro bocca. Ah, naturalmente, ricordatevi che questi esseri malvagi cercheranno sempre di sminuire diciamo, quello che dicono. Ma guardi le virgole, i punti, errori grammaticali che possiamo fare tutti. Vai a guardare la parola fuori posto. No, qui non stiamo parlando di errori grammaticali, qui non stiamo sbagliando, non stiamo parlando di un errore, diciamo, di grammatica, non è che hai sbagliato il congiuntivo, no, tu sei malvagio, tu sei un essere immondo, tu sei a livello di quei farisei, sei una vipera. Tu che parli contro Gesù, dicendo queste cose malvagie contro Gesù, tu sei malvagio, sei un albero cattivo. No, non hai fatto un errore grammaticale, come vorresti farmi credere? Tu pensi che tutti siano stupidi? Tu pensi che tutti si lasciano abbindolare dalle tue ciance, dai tuoi sofismi? No, tu sei malvagio, e essendo malvagio naturalmente poi tiri fuori altre cose malvagie per difendere le cose malvagie che hai detto in precedenza, ma io le conosco bene queste dinamiche. E quindi, vedete, cercheranno sempre di sminuire, di far credere che quello che hanno detto... Ma fratello, ma sbagliamo tutti, come sbagliamo tutti? Sì, falliamo tutti in molte cose, ma non tutti insegniamo eresie di perdizione. Giacomo, il fratello del Signore, che ha detto falliamo tutti in molte cose, certo, si è incluso tra quelli che fallivano in molte cose, ma non insegnava eresie di perdizione, non parlava contro Dio, non parlava contro Gesù, capite? State attenti, perché questi sanno giocare con le parole, sono dei giocolieri, Sono dei giocolieri questi qua, gente malvagia, state attenti. Questi qui la notte non dormono per pensare alle cose malvagie che devono dire per ingannare le persone. Questi qui non è che meditano sui loro letti come fare il bene allo spuntare del giorno ai santi. No, questi pensano a come fare del male, a come traviarli, ingannarli, corromperli e menarli in perdizione. Questi sono nemici di Dio. Non abbiate niente a che fare con i nemici di Dio. State solamente con gli amici di Dio. Allora, andiamo avanti, perché qua ho fatto una piccola lista, attenzione, una piccola lista, perché qui la lista, dovrei stare giornate io, per appunto enunciarvi le cose malvagie che vengono dette nelle chiese contro Dio, contro Gesù. Allora adesso vi faccio un altro esempio, così, diciamo, sempre per rendervi sempre più chiara la cosa, per farvi capire l'importanza delle parole. D'altronde Gesù ha attribuito molta importanza alle parole, gli ha dato un significato veramente importante, o mi sbaglio? O mi sto inventando qualcosa? Gesù ha detto, dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Io giudico la persona in base a quello che dice, in base a quello che dice perché ce l'ha nel cuore, perciò non mi posso sbagliare. Ascoltate, che dire di quelli che insegnano che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere? E che in questa maniera rigettano la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. In sostanza rigettano la scrittura che dice il giusto vivrà per la sua fede. Infatti che cosa predicano? Predicano che l'uomo è giustificato per le opere che compie dopo aver creduto, annullando così la grazia e facendo passare la morte di Gesù, la morte espiatoria di Gesù, per una morte inutile. E certo, come li giudicate voi quelli che appunto dicono, diciamo, questa cosa? È una cosa buona o è una cosa malvagia? Ditemi. Noi la giudichiamo una cosa malvagia. Quindi chi la dice è? Albero cattivo, è un uomo malvagio. Non guardate, lo ripeto, le sue opere, che poi naturalmente cercherà di ostentare, di farvi conoscere in tutti i modi che ha fatto questo, ha dato questo, perché questi poi sono fatti così, no? Questi che predicano la giustificazione per opere, non guardate alle loro opere, guardate a quello che esce dalla loro bocca. A queste cose sono malvagie, quindi costoro sono alberi cattivi, sono uomini malvagi. Guardate che è così, fratelli, è così. Tutti quelli che si basano sulle scritture non vengono mai confusi, vengono confusi quelli che vanno contro le scritture, ma non quelli che si attengono alle scritture. Quindi vedete, anche qui naturalmente il discorso è sempre lo stesso: dall'abbondanza del cuore la bocca parla, e chi dice, diciamo, che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere è una vipera, non è una pecora. D'altronde Gesù ai farisei mica li chiamava le sue pecore, mie pecore, le chiamava razza di vipere. Ah, ma guardate che questa razza di vipere c'è ancora oggi, quello spirito dell'anticristo, perché quello è lo spirito dell'anticristo che parla tramite le vipere, c'è, e c'è anche nelle comunità, nelle denominazioni evangeliche. Ma sapete quante vipere che oggi ci sono? Ma ce ne sono una marea. Andiamo avanti, un altro esempio. Ma secondo voi, quelli che dicono che la vita eterna non è il dono di Dio, ma la paga della nostra condotta che riceveremo a suo tempo, o che dicono che loro si appropriano di un pezzo di vita eterna ogni volta che si inginocchiano in preghiera, vorrei sapere da voi, no? Ma stanno dicendo delle cose buone o delle cose malvagie? Io giudico che stiano insegnando delle cose malvagie. Quindi sono alberi cattivi, sono uomini malvagi. Anche qui non vi fate ingannare dalla vana apparenza, eh? Non vi fate ingannare dai loro discorsi sulle opere buone, non vi fate ingannare, fratelli, questi sono malvagi, perché rigettano la testimonianza di Dio. Questi rigettano la parola di Dio, che dice che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo dice la parola di Dio, ma loro la rigettano. Hanno trasformato il dono di Dio in una paga, in un salario. Addirittura si spingono a dire che loro, solo persone malvagie possono dire queste cose, o no? O no? Ma chi può mai venire in mente di dire, ogni volta che ci inginocchiamo in preghiera, noi ci appropriamo di un pezzo di vita eterna? Ma chi, se non un essere immondo, spregevole, diabolico, satanico, bugiardo, che non conosce Dio, che odia Dio, che fa Dio bugiardo? Chi può dire queste cose? Ma chi può solo pensarle? Solo un uomo malvagio, solo un albero cattivo. Già, ogni albero, dal frutto si conosce l'albero. Eh sì, è proprio così. Ricordatevi queste le parole di Gesù: non rimarrete mai confusi nel credere a quello che ha detto Gesù. Gli apostoli non rimasero confusi, I credenti delle chiese antiche non rimasero confusi, quelli che credevano nel Signore, nella sua parola, non rimasero confusi. Rimasero confusi naturalmente gli scellerati, i falsi apostoli, i falsi dottori, i falsi profeti, quelli sì. Quelli sono sempre rimasti confusi, sono rimasti confusi sempre gli uomini malvagi, che si presentano con finti sembianti, in mezzo alla Chiesa, ce ne sono tanti, finti sembianti, si uniscono alla Chiesa con finti sembianti, sembrano, fanno di tutto per sembrare, per apparire dei nostri, ma non sono dei nostri, poi si manifestano il loro odio che hanno dentro, verso Dio, verso Gesù, verso i santi, si manifesta poi, nel momento che meno te l'aspetti. Questi hanno 7 abominazioni in cuore, ricordatevi, 7, e le tirano fuori tutte, sono dei mostri, come dei bruti senza ragione, la scrittura li definisce proprio così, come bruti senza ragione. Ma veramente, quando tu veramente li ascolti parlare, sembrano persone prive di senno, senza ragione, non ragionano. Parlare o cercare di ragionare con loro è come cercare di parlare e ragionare col diavolo, la stessa cosa, credetemi, è così. Sono, d'altronde, fanno parte delle vipere, con le vipere c'è poco da fare. Le vipere vanno cacciate via. Le vipere vanno cacciate via, sono vipere. Non si può fare niente. Le vipere vanno, diciamo, ammonite, riprese. Come fece Gesù? Che fece Gesù con le vipere? Le riprese a quelle vipere. Li ammonì. Però, come fai a dialogare con i viperi? Oggi molti dicono, dialoghiamo! Sì, ma con chi dialoghi? Con i viperi? Il dialogo. Noi siamo per il dialogo. Certo, noi dialoghiamo. Dialoghiamo, però non è che ci mettiamo a dialogare con le vipere. Noi le vipere le ammoniamo. Le vipere odiano Dio, odiano Gesù, odiano la grazia, odiano l'Evangelo. Con chi dialoghi? Con le vipere! Io con le vipere non ci dialogo, li ammonisco. Molti anni fa, dopo che pubblicai il mio libro, mi sta venendo in mente una cosa. Molti anni fa, dopo che uscì il mio libro La massoneria smascherata, che naturalmente, diciamo, non fu gradito a molti. Da un lato, diciamo, molti lo accolsero veramente con gioia, dando gloria a Dio, però ci furono altri che naturalmente non lo ricevettero assolutamente con gioia. E allora, dopo che lo pubblicai, cominciarono ad arrivarmi un po' di telefonate, un po' di tutti i tipi, particolari telefonate. Chi mi invitava a questo, chi mi invitava a quell'altro, ma guarda un po', appena ho toccato il discorso massoneria hanno cominciato a fioccare gli inviti. Vabbè, non voglio entrare adesso, diciamo, nel merito di alcuni inviti, comunque sia. Però voglio parlarvi di uno di questi inviti, non di tutti. Allora, praticamente mi telefonò uno, mi disse: signor Butindaro, insomma, si presentò e mi invitò praticamente a una conferenza, diciamo, interreligiosa, cioè praticamente mi voleva sostanzialmente fare confluire nel dialogo interreligioso. Allora io ho ascoltato il suo invito, la sua proposta, e poi gli ho risposto come si conveniva che io rispondessi a uno che mi invitava ad andare a dialogare con i musulmani. Esempio. E questo qui si infuriò. Lei non deve giudicare nessuno. Boom! Mi attaccò il telefono. Ecco, avete visto? Avete visto? Ho detto solamente che io non avevo intenzione di partecipare a quella conferenza perché, e dopo gli ho detto i motivi, no? Perché i partecipanti, per esempio, quei partecipanti dicevano questo e questo, no? Contro la verità. E lui, quando mi sentì rispondere in questa maniera, si arrabbiò e veramente attaccò il telefono. Ma per dire, io dialogo, sì, ma non dialogo con le vipere. Cioè, voglio dire, noi dialoghiamo con i santi, e poi naturalmente dialoghiamo anche con coloro che ci vogliono ascoltare quando li evangelizziamo, perché chiaramente noi con le persone del mondo ci dialoghiamo per evangelizzarli, quindi per parlargli del ravvedimento, per esortarli a ravvedersi, anche per annunziargli l'Evangelo. Ma noi non è che andiamo in giro a cercare punti di contatto, punti in comune con i buddisti, i musulmani, i mariani, i massoni. No, non andiamo a cercare noi queste cose, no? Noi siamo nella verità, conosciamo la verità e quindi annunciamo la verità di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda. Dice la scrittura, ma dice anche Gesù, chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Perché noi abbiamo questa certezza che Gesù ha detto la verità, fratelli, ci ha detto la verità. Gesù non ha mentito. Allora, chi è? Ascoltate cosa ha detto Gesù. Allora, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per cui, ma quale problema ci dobbiamo creare noi? Io non mi sono mai creato questo problema. Io predico il ravvedimento e l'Evangelo. Esorto gli uomini a ravvedersi e credere nell'Evangelo, sapendo che chi è da Dio ascolta le parole di Dio. E allora tu mi dirai, e quelli che non sono da Dio non ascoltano, ma mica la colpa è la mia. Gesù disse per questo ai giudei che lo volevano uccidere e che non ascoltavano la parola che lui gli annunziava, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Semplice, vero? Queste parole sono scritte al capitolo 8 di Giovanni, versetto 47. Cioè, quando gli uomini rifiutano l'Evangelo, io non è che mi straccio i vestiti, no, so che non ascoltano perché non sono da Dio. Quelli che sono invece da Dio ascoltano. Allora, vi stavo dicendo appunto che noi dialoghiamo. Dialoghiamo, ma non con le vipere. Le vipere noi le ammoniamo, le riprendiamo, li esortiamo a ravvedersi, a convertirsi. Però, credetemi, noi non siamo aperti al dialogo con le vipere. No, no. Le vipere hanno un veleno veramente micidiale, hanno il veleno d'aspidi sotto le labbra. Io ne ho conosciute di queste vipere, eh? Quando Dio ti allontana queste vipere dalla tua vita, sei veramente una persona felicissima, felicissima. Per farvi un esempio, no? È come se in casa vostra entrasse un serpente cobra, e praticamente si nascondesse da qualche parte e voi praticamente non sapete dove si trova. Insomma, non credo che stareste tranquilli. Ebbene, quando si insinuano in mezzo alla Chiesa questi serpenti, c'è un'aria pesante. C'è un'aria pesante e c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Magari non si riesce a capire immediatamente che cosa, però si avverte che c'è qualcosa che non va. C'è uno spirito che non è da Dio. Non è da Dio. Però, che cosa succede? Siccome che noi, diciamo, per agire, no? Per parlare, abbiamo bisogno o di una rivelazione di Dio o altrimenti, diciamo, di prove inequivocabili, inconfutabili, in assenza di una rivelazione di Dio e di prove inconfutabili, allora noi sopportiamo, non tolleriamo, attenzione, perché comunque sia le cose false le riproviamo, però praticamente noi aspettiamo con pazienza, sapendo che poi chi è vipera poi si manifesta come vipera. Infatti è successo così. È successo così. Perché comunque sia, le pecore rimangono pecore, ma le vipere rimangono vipere. E anche se si camuffano da pecore, poi le vipere, i serpenti, si manifestano per quello che sono. Capite? Quindi noi dobbiamo essere sempre fiduciosi nel Signore. Che anche quelli che si sono uniti a noi con finti sembianti, ce ne sono sempre stati nella Chiesa, uomini e donne che si sono uniti ai santi con finti sembianti, poi a suo tempo il Dio praticamente li smaschera, li fa venire allo scoperto, facendogli tirare fuori da quel tesoro malvagio che hanno, attenzione, le cose malvagie, e allora lì abbiamo poi la certezza assoluta che quelli sono alberi cattivi, senza alcun dubbio. Perché noi ci basiamo sulle parole di Gesù. E io ho visto nella mia vita, in tutti questi anni, che veramente le cose stanno sempre come ha detto Gesù, come ha detto Paolo, come ha detto Pietro. Quindi fidatevi delle parole di Gesù. Quindi date alle parole l'importanza che gli ha dato Gesù. Io questo vi chiedo e vi dico. Prendete le parole di Gesù e veramente fatele dimorare nel vostro cuore. Abbiatele sempre pronte sulle vostre labbra. Sono verità, fratelli nel Signore. E veramente queste parole vi metteranno al sicuro, vi libereranno queste parole, se voi veramente le credete, se voi veramente le fate vostre, vi libereranno dal laccio degli alberi cattivi, degli uomini malvagi, che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa, in mezzo alle Chiese, veramente. Noi ne abbiamo conosciuti alcuni, ma guardate che ce ne sono molti e molti altri, molti e molti altri che magari noi non conosciamo, ma le cose stanno così, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, fidatevi di quello che ha detto Gesù, il malvagio, l'uomo malvagio, dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie, quando vedete che quello tira fuori cose malvagie contro Dio, contro Gesù, contro la giustificazione, contro la vita eterna, o naturalmente è uno che praticamente come i farisei calunniano, calunniano, cioè si inventano false accuse contro i santi. Le false accuse sono quelle che non si possono dimostrare, sono quelle che non hanno alcuna prova. Ebbene, quello lì, sappiate, è un uomo malvagio, è un uomo malvagio, che trae dal suo malvagio tesoro cose malvagie. Le ha dentro, capite che le ha dentro? I farisei, quelle cose malvagie che dicevano contro Gesù, le avevano dentro, nel loro tesoro malvagio. Quindi avete capito allora come si riconosce l'albero? Dal frutto, dal frutto. Li riconoscete dalle loro parole. Riconoscete sia l'uomo da bene che l'uomo malvagio, da quello che la loro bocca proferisce. Quindi non vi fate ingannare dall'apparenza, non vi fate ingannare dalla loro apparenza. Magari vanno al culto, magari scrivono qualche post, diciamo, su Facebook, no? Magari scopiazzando da me, perché generalmente questi scellerati scopiazzano da me per cercare di insinuarsi in mezzo a noi, no? O mi scimmiottano o mi scopiazzano, no? Perché dicono così almeno riusciamo diciamo, a infiltrarci, diciamo, tra coloro che ascoltano Giacinto. Allora state molto attenti, fratelli, perché questi sono veramente vipere. Io ve lo ripeterò fino alla fine, perché io, quando scopro le vipere, io alzo la voce, a guisa di tromba, eh sì, io paziento, ma quando poi ho la certezza che Tizio, Caio e Sempronio sono delle vipere, allora suono la tromba, e allora. Quindi, ricordatevi di quello che ha detto Gesù, dal frutto si conosce l'albero, molto semplice, e ricordatevi anche questo, che questi alberi cattivi tirano fuori sì dal loro cuore cose malvagie, ma hanno anche opere malvagie. Credetemi, sono veramente malvagi. La loro vita privata è costellata veramente di disordine, atti malvagi di ogni genere. Cose che fanno rabbrividire. Rabbrividire. Quindi, fratelli cari, veramente siate avveduti, siate semplici come le colombe, ma prudenti come i serpenti, perché in giro vanno attorno molti alberi cattivi, che si riconoscono dal frutto, dalle cose malvagie che tirano fuori dal loro malvagio tesoro. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.